This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. There are some dark pages in the history of the white man's dealings with the Indian, and many parts of the record are stained with the greed and avarice of those who have thought only of their own profit. Allora, siamo in compagnia di Vanni Santoni, uno scrittore che è già venuto spesso e volentieri qua a Bologna, anche se non è proprio di Bologna. Ha scritto un libro che si chiama Muro di Casse, e Muro di Casse perché nei rave party spesso erano dei veri e propri muri di altoparlanti, autocostruiti, raffazzonati, l'importante era fare volume. Buonasera Vanni. Buonasera a voi, ciao, grazie dell'invito. Beh, intanto presentati un po', non sei proprio di Bologna, si sente, diciamo. No, sono venuto, è vero che di Muro di Casse a Bologna di presentazioni ce ne sono state già 6. Addirittura. E probabilmente ne stiamo anche progettando altre. E è venuto naturale, un paio le ho organizzate io, però le altre sono arrivate su inviti perché Bologna, come tutti sanno, è stata specialmente negli anni 90 e nella prima metà degli anni 2000 una delle città appunto di riferimento per il movimento free techno in senso specifico e per il movimento rave in senso più ampio, e ancora questa eredità, nonostante abbia subito molte repressioni da un lato e l'inevitabile passaggio del tempo dall'altro, ancora si sente, ci sono ancora molti spazi e persone che sono in qualche modo legate a quell'esperienza, e di conseguenza Bologna è stato proprio uno dei luoghi di elezione, un po' come sta avvenendo adesso a Torino, da cui sono recentemente tornato per l'ennesima presentazione in Roma. Forse queste erano le città sui tecnici italiano che era più attaccato. Noi però ci fossilizziamo spesso e volentieri nella nostra trasmissione settimanale che si chiama This is not an exit, proprio sul momento di origine di questo fenomeno, che non era un fenomeno italiano, era un fenomeno inglese che poi ha avuto repressioni, come dicevi tu. Si parte, se non mi ricordo male, verso la seconda metà degli anni 80. 89. È esattamente quello, il momento, la culla della cultura rave, perché è dell'87-88 che iniziano a esistere feste acid house che escono dai club, trovando stretto l'ambito, lo spazio e soprattutto il tempo del club. Iniziano ad andare in warehouse, uffici e spazi smessi, campi e colline. Poi con lo scoccare degli anni 90 iniziano a formarsi i primi sound system techno, Spiral Tribe è il sound system più noto e comunque più rilevante, perché sono quelli che poi per anni hanno girato tutti i paesi europei spargendo il verbo, però ce n'erano anche altri che in quella scena erano ugualmente importanti, come i Bedlam, i Circus Warp, Circus Normal, gli RSI dalla sigla Do It Yourself. E questi sound system iniziano a imperversare in Inghilterra fino a un momento di culmine, che è stato il festival di Castlemorton il 1 maggio del 1992. Era un festival preesistente, era un festival freak che esisteva da... simile a quello che era da noi il London Road Festival di Pelago, ma con un'altra grandezza di scala. E un giorno gli Spiral Tribe e questi altri sound system ebbero l'idea di portare il sound system lì, e quindi in questo luogo, in cui c'era già una decina di migliaia di persone, in cui certamente non mancavano le sostanze psichedeliche, portare dei sound system e iniziare a mandare techno a martello lo trasformò in un baccanale mostruoso che durò molti molti più giorni di quanto era previsto all'inizio, creando anche un'enorme campagna stampa e poi dando origine a un processo che durò praticamente per 2 anni, fu il processo più lungo e più costoso fra l'altro della storia giudiziaria inglese, e si concluse con l'assoluzione degli Spiral Tribe. Però ebbe un effetto nefasto, perché subito dopo l'arco di date dei tucciti nel 94 il Parlamento inglese fece una legge, il Public Order and Justice Act, che vietava i raduni con musica ritmata, quindi una legge, un primo caso di legge che imponeva un razzismo musicale. Anzi, non è proprio il primo caso, perché c'era un precedente: il ministero della cultura nazista aveva vietato il foxtrot nella musica d'orchestra per più del 20% del tempo, perché diceva che fomentava la gente e tirava fuori istinti dal razzo inferiori. Ecco, dopo il vittorio della cultura nazista nel 94, il Parlamento inglese mise fine a questa esplosione della cultura rave con questa legge, che tuttavia ebbe un effetto inverso, fece sì finire la cultura rave in Inghilterra, che tornò nei club o nei grandi festival a pagamento, ma dall'altro lato, spingendo le tribe fuori dal Regno Unito, le portò a girare tutta l'Europa e far sì che questa diventasse ed emergesse come la principale controcultura o subcultura giovanile europea degli anni 90 e poi anche 2000. Una domanda da farti immediatamente: che cos'è una tribe? Beh, una tribe è un gruppo organizzatore di feste. In realtà sul termine c'è moltissimo dibattito, perché si può parlare di tribe, si può parlare di crew e si può parlare di sound system, quasi che siano tre gradi discendenti, nel senso che la tribe è intesa come un gruppo anche molto vasto, che include non soltanto quelli che suonano e quelli che hanno il sound system, ma tutta una serie di persone, in alcuni casi anche famiglie, che si spostano assieme al sound system e che vivono, o meglio vivevano, perché qua si fa riferimento più a quel periodo che va appunto tra l'inizio degli anni 90 e la prima metà degli anni 2000, in cui esisteva una sorta di economia nomade della free techno e c'erano moltissimi gruppi che continuamente organizzavano feste. E all'interno di questa punteggiatura mobile i tecnici allestivi diventavano una sorta di summit, il momento in cui il movimento si guardava in faccia, si riconosceva e poi nuovamente si disperdeva per il continente. E probabilmente questo, l'etichetta pura di tribe può essere data a un numero abbastanza limitato di gruppi legati al movimento free techno, però ci sono state anche molte crew più che magari non facevano una vita nomade tutto il tempo, ma solo in determinati periodi, e anche dei semplici system, magari dei ragazzi che montavano il loro muro di cazzo soltanto qualche volta durante l'anno, ma ciò non toglie che anche loro contribuivano al movimento. Cioè, la cosa interessante, una delle cose interessanti del movimento free techno a mio avviso, è anche questo fortissimo grado di spontaneismo, quest'anima davvero intimamente punk che faceva sì che chiunque poteva, volendo, mettere sul proprio impianto e organizzare la festa. Non esistevano gerarchie neanche storiche o artistiche, anche se poi, se oggi storicizziamo, è chiaro che sono esistite tribe che hanno usato di più e che hanno definito di più la direzione del movimento rispetto ad altre. I'm the one and only. Movimento che però non veniva solo a parte, l'animo era sicuramente punk, ma se non sbaglio non è nato in ambiti punk, era nato in ambiti più hippie, mi sbaglio? Beh, è un movimento prettamente sincretico, che il fatto, lo sottolineo più volte durante Muro di Casse, è interessante perché lo rende anche una subcultura, un movimento giovanile. Il muro di speaker e portarlo in un luogo pubblico, in un luogo non fatto per l'aggregazione, viene dalla cultura giamaicana, già nell'immediato dopoguerra, negli anni 40, in un'epoca addirittura antecedente al reggae, in Giamaica si formavano questi primi sound system che per offrire un luogo di aggregazione alla gente dei quartieri, che era molto povera, non si poteva certo permettere le poche balere che esistevano nelle città giamaicane degli anni 40, portava gli speaker nelle strade, nei cortili, li trasformava in luoghi di ballo e di socialità. Poi dagli anni 60 e dagli EP evidentemente arriva il ritorno della psichedelia, dopo gli anni 80, gli anni del riflusso, anni caratterizzati da sostanze come eroina e cocaina, erano sostanze molto di sistema, una droga performativa, l'altro un narcotico, un analgesico, tornavano invece sostanze psichedeliche come l'LSD o entactogene come l'MDMA, quindi tornava l'idea dell'utilizzo di sostanze per creare degli spazi mentali altri. Dal punk viene l'idea dell'autogestione e dell'autoproduzione estrema, e il punk nasceva, se vogliamo, anche come reazione rispetto alla commercializzazione di un rock and roll che negli anni 60 era stato e aveva saputo essere fortemente politico, e la free techno riprendeva questo, nel senso che portava l'idea di autoprodurre il sound system, di autoprodurre il flyer, di autoprodurre la musica, di stare sempre e soltanto in circuiti indipendenti. Uno dei motti free techno era stay legal, stay free, quindi un orgoglio del rimanere in circuiti esclusivamente illegali e quindi non mercificati. Dagli anni 80 arriva la musica, perché comunque la musica elettronica nasce all'interno dei club, specificamente la techno nasce a Detroit, che è anche la città in cui nasce il fordismo negli anni 80, e dagli anni 90, dalla cultura degli smanettoni, arriva l'idea di appropriarsi degli strumenti di produzione digitale. Quindi il movimento free techno ha molte anime, e la fusione principale è quella che avviene proprio in Inghilterra nel 92, è fra un movimento techno con radici in realtà fortemente legate al punk, almeno a livello estetico, e i New Age Traveler, che erano i post-hippie, erano i cascami della cultura hippie che in Inghilterra ancora esistevano, e nel momento in cui queste due anime, l'era dell'acquario degli hippie e il no future del punk, si fondono, nasce questa cosa. Tant'è che, secondo alcuni teorici inglesi, il padrino involontario della free techno potrebbe essere considerato Penny Rimbaud dei Crass, che a suo tempo spesso si era battuto per cercare di spiegare ai fricchettoni e ai punk che non dovevano odiarsi e darsi le botte, ma invece dovevano unirsi perché il nemico era un altro ed era esterno. Sì, erano famose le varie coalizioni di Rude Boys che andavano a pestare gli hippie, ma quasi va indietro appunto agli anni 70. I Crass invece vivevano in comuni anarchiche e avevano un tutt'altro modo di pensare probabilmente, anche se sempre working class di estrazione erano. Ma la cosa bella, come dici tu, è stato questo inizio e poi soprattutto forse anche grazie al dispiegarsi della techno a livello mondiale, forse uno dei linguaggi che ha avuto più successo negli ultimi 30 anni in assoluto. Poi, come dicevi tu, dopo il 94, non so se qualcuno abbia mai visto l'edizione originale di la retrocopertina di Music for the Gilded Generation, dove c'è un fossato con la polizia da una parte e i ragazzi che ballano da un'altra, e dove si cita appunto la legge inglese che vietava gli assembramenti. I rave però erano già parecchi anni che erano in giro, era già una comunità molto politicizzata. In Italia arrivava qualcosa sbocconcellato e all'inizio degli anni 90 cominciò ad arrivare pure qui. E qua comincia anche il tuo libro, che è una cosa, è un punto di vista molto personale, giusto? Sì, è chiaro che in Inghilterra il discorso è particolare perché, come tu hai sottolineato, tra l'altro quelle immagini con il tizio che taglia alla Indiana Jones le corde del ponte fra una città inquinata e tutta piena di sbirri e un luogo bucolico con il sistema della gente che balla, continua a circolare ancora viralmente nei vari siti, nei social, nei profili di segue il movimento techno. E però hai visto, i Prodigy sono un esempio emblematico, loro vengono dalla rave e diventano poi invece sostanzialmente le rockstar trasmesse su MTV. Questo ci indica intanto il fatto che non esiste forse questa età d'oro di una purezza assoluta. Inizialmente il movimento rave nasce in opposizione, ma nasce anche emanato dalla club culture, da una immersione fortissima della musica elettronica in Italia, ben prima che si parlasse di tribe o che si vedesse gente con la felpa nera, il cappelletto sulle 23, le scarpe da skate, le chiavi, i ciondoloni, il cane, la padella, il furgone. Esistevano gli after hours, i più anziani ascoltatori ricorderanno posti tipo il The West, che con musica techno, il CH Progressive, erano dei raduni che giudavano più giorni, erano dei rave ad ogni effetto, anche se ancora non esisteva il termine o il riconoscimento di questa cosa come una subcultura. Oppure una città come Roma aveva tutta una sua scena, l'Hard Raptus, il Virus, le serate organizzate, il Plastic, le serate organizzate da Radio Onda Rossa. Esisteva già un fermento fortissimo intorno a questa nuova modalità espressiva, e la cultura free techno andava a coagularsi in modo chiaro all'interno di un movimento più ampio che girava intorno all'affermazione di questa nuova modalità di intrattenimento e aggregazione che era la techno. Per esempio, in una città come Roma esistevano già situazioni come il Virus, come l'Hard Raptus, come il Plastic, che erano dei rave, anche se ancora non esistevano le Tribe e non c'erano gli Spiral in giro per l'Europa, a definire un modello anche estetico. E credo sia per questo che, come subcultura o controcultura, la techno sia durata così tanto, perché 25 anni è una durata davvero inusuale per una controcultura giovanile, perché entrava a gamba tesa all'interno dell'industria del divertimento. Di fatto offriva a tutti, non solo a coloro che aderivano alla nicchia e si riconoscevano nella sua estetica e nelle sue modalità, un'alternativa migliore di fatto a quello che era uno dei modelli di intrattenimento dominanti, cioè i locali notturni. E di conseguenza tu al rave non trovavi soltanto i raver, ma quando trovavi un festone da 5.000 persone, certo c'erano i raver, ma c'era anche gente di tutti i tipi, chiunque sia stata una festa. Poi non parliamone quando avveniva nelle città, voi siete di Bologna, vi ricorderete un posto come il livello 57, che era vicinissimo alla stazione, ben noto a tutti, la mattina alle 1, dopo la serata vedevi dei personaggi e ti dicevi: ma questo da dove è apparso? Sì, ce lo ricordiamo, i rave party al livello 57, magari qualcuno li ha anche visti. Frequentati, giravano persone assurde, sì, la ciotola, i cani, cominciavano a apparire gente con dreadlocks lunghissimi e si va indietro di 20 anni e più, giusto? Il periodo più o meno è quello. Sì, 15 anni tutti. E no, ma il dato interessante secondo me è che a quei tempi ancora, e ancora per un po', il rave era davvero un melting pot mostruoso, era una cosa assolutamente trasversale che scava l'idea di intrattenimento notturno offrendo un qualcosa di anarchico e folle. Poi pian piano ovviamente quella controcultura che metteva in discussione non soltanto l'industria del divertimento ma anche la società dello spettacolo, perché come ricordo all'interno di Muro di Castello, la prima cosa che anche un profano nota quando arriva a una festa è che non si vede il DJ, no? Il DJ è dietro al Muro di Castello, nascosto, non sai chi sta suonando, e questo rompe l'idea stessa di stardom a cui siamo abituati. Ecco, finché c'era una forte carica controculturale e avveniva tutto questo. Successivamente, quando la gente ha iniziato a riconoscersi, se vogliamo, nella divisa e nell'etichetta da raver, probabilmente il movimento o fenomeno che dir si voglia è rientrato in un ambito più subculturale e più marginale. Di movimento, ma il movimento si riconosceva come tale o era sempre qualcosa di sotterraneo, rizomatico, per usare una parolona, e senza una vera e propria consapevolezza? Beh, è una parolona, ma è assolutamente adatta a definire quello che è stato il movimento free techno, tant'è che anche durante le presentazioni a volte uso il termine movimento, a volte utilizzo il termine fenomeno, perché c'era un grado di spontaneismo fortissimo e appunto era rizomatico, nel senso che ci sta benissimo che un tizio si sia fatto 100 feste storiche senza essere mai stato a una festa degli Spiral Tribe, e ciò non va a detrimento della sua conoscenza della free techno, benché ci fossero tribe più importanti o con una vita più lunga, nessuna era di per sé decisiva al movimento, anzi la festa era talmente fatta dall'happening, dalla psichedelia, dai partecipanti stessi, dall'evento sociale in sé più che da chi stava suonando, che fa sì che non avrebbe neanche senso fare una, ad esempio, una genealogia storica della free techno. E il rizoma è una rappresentazione perfetta di quello che è stato questo fenomeno in questi anni. I gradi di consapevolezza, secondo me, vanno misurati a seconda delle singole scene, a seconda dei periodi. Per esempio, nelle città in cui c'era una forte presenza preesistente di squat, spazi autogestiti, molto spesso i tecnusi si sono ibridati con questi, e quindi da queste esperienze preesistenti è arrivata anche una forte consapevolezza politica, così come molto consapevoli erano gli Spiral Tribe. Altrove c'erano anche delle tribe che invece avevano interesse soltanto a far festa, bordello e magari alzare due soldi grazie alla festa, che non avevano percezione o volontà politica. Ma dall'altro lato è anche vero, e questo specialmente nella terza parte di Muro di Cast cerco di metterlo in luce il più possibile, che per la sua natura il rave era politico, nel senso che siccome noi dagli anni 90 in poi si entrava in un'epoca in cui il lavoro non era più il fatto centrale intorno a cui si definiva l'identità, perché il lavoro si perdeva, il lavoro si precarizzava, i diritti del lavoro, non ne parliamo, venivano fatti a pezzi e vengono fatti a pezzi uno dopo l'altro, e invece il tempo libero, da essere solo spazio o spazio-tempo ricreativo, diventava sempre più lo spazio-tempo della definizione del sé. Di conseguenza, nel momento in cui il tempo libero serve a definire il sé e dall'altro lato arrivano subito le forze del male a cercare di mercificarlo, una azione che va a agire nello spazio dell'oasir diventa intrinsecamente politica. We'll be right back. proposito del 6, hai scelto appunto, come accennavamo prima, di narrare, usare una forma narrativa che nell'introduzione dici la più efficace, cioè quella del romanzo. Avresti potuto scrivere un saggio sociologico, scrivere vari articoli sui giornali. Da dove viene questa scelta? Sì, ho fatto questa scelta dopo aver scritto un articolo che ho scritto dopo il Tecnico di Cinerolo, quando tornai dal Tecnico di Cinerolo nel 2007, i giornali di TV avevano preso le misure del fenomeno. Non l'avevano capito, ma avevano capito che era qualcosa di cui dovevano parlare male, e quindi iniziarono a uscire servizi TV, articoli sul Tecnico, tutti nel migliore dei casi sbagliati e nel peggiore criminalizzanti. E a quei tempi scrissi un articolo, si chiamava Rate Me Tender, il Tecnico alle 10 discipline, adesso è finito nell'appendice di Muro di Casse, cercando di spiegare ai profani cos'era sta cosa. Il risultato però fu che quell'articolo diventò virale all'interno dei siti dei tecnusi. In realtà parlava a chi già conosceva il fenomeno, quindi se vogliamo anche falliva la sua missione. E i saggi sono sempre un po' così, tendenzialmente chi si compra un saggio, chi è interessato a un certo tema, io mi piacciono, non lo so, le crociate oppure gli insetti, mi compro un libro sulle crociate o sugli insetti. Ugualmente mi piace l'Afritecno, mi compro un libro sull'Afritecno. Il romanzo invece c'ha un altro potenziale, perché il romanzo ti racconta delle storie, e questa cosa abnorme, anarcoide, che aveva attraversato molti paesi europei, le vite di un sacco di gente, era piena di storie. Ad esempio la storia dei Desert Storm e della loro spedizione in Jugoslavia era una storia bellissima. Ecco, se tu racconti delle storie, allora hai la possibilità di interessare anche gente che normalmente non sarebbe interessata al tema, e il fatto che Muro di Casse sta funzionando così tanto credo sia spiegabile con questo. Un saggio non avrebbe ottenuto tutti questi risultati. Poi c'è un'altra questione, che oggi il romanzo può contenere il saggio, perché dopo il modernismo, dopo il postmodernismo, il romanzo è una forma letteraria molto ampia che può inglobare e includere dentro di sé anche altre forme, mentre viceversa il saggio non può includere il romanzo, quindi sarebbe diventata forse una lista fredda di nomi di tribe, luoghi, date, sound system, che però non avrebbe mai detto a chi legge cos'era questa cosa nel suo senso più profondo. We'll be right back. E poi parti dal personale, non so se questo si è compreso nel formato New Italian Epic di cui si parlava 6-7 anni fa, però mi sa che mi sembra che i tuoi Jacopo, insomma, i tuoi Gary, insomma, i personaggi che escono sul tuo libro, che ricordiamo, esce tra l'altro come editore importante, la terza, e sembrano persone molto vive, sembra che siano cose che tu stesso abbia vissuto in prima persona, giusto? Sì, sì, assolutamente. Rodicasse parte da una linea di esperienza diretta che ho voluto mettere un po' in tutti i personaggi del libro, più che nella voce narrante. La voce narrante ho scelto il tu, quindi una seconda persona per prendere una distanza, perché non voleva essere una cosa del tipo io ti spiego come sono state le feste. Ognuno ha avuto la sua esperienza, quindi metto al centro proprio il lettore. Però Muro di Cazze è un libro in cui un personaggio, questa voce narrante che non ha nome, vuole scrivere un libro sulle feste, e per farlo va a parlare con tre persone che di fatto raccontano la loro esperienza. Un semplice frequentatore, Jacopo, una persona che si è avvicinata al mondo delle feste arrivando da un'esperienza politica legata agli spazi autogestiti, come è capitato a molti in Italia, Cleo, e una persona che invece si è trovata per caso a vivere una delle più grandi avventure del Techno Traveler quando era molto piccola, e da allora ne ha fatto proprio il proprio stile di vita a 360 gradi. E in realtà in Muro di Cazze si utilizza quindi l'autofiction, se vogliamo, l'esperienza diretta, si utilizzano le esperienze di persone che conosco, si utilizzano dei materiali come quelli relativi alla spedizione dei Desert Storm in Jugoslavia, che è avvenuta nel 1994, quando ero troppo piccolo per andare in una zona di guerra con un camion, che ho raccolto parlando con loro, quindi di fatto intervistandoli, e anche materiale documentale, perché la parte centrale del libro è una sorta di dialogo platonico tra la voce narrante e Cleo, in cui vengono citati tantissimi estratti di saggi antropologici, sociologici, etnomusicologici sul tema. Però dall'altro lato io credo che oggi si possa parlare di forma ibrida fino a un certo punto. Il romanzo, che come diceva Gospodinov, non è ariano, il romanzo è una forma meticcia ibrida di per sé, quindi secondo me può includere parti autobiografiche, parti documentali, parti raccolte con tecniche giornalistiche, parti di saggio, senza per questo smettere di essere romanzo. Te lo chiedo un'altra cosa, ma chi sono i visto che ormai, come dicevi all'inizio, hai fatto tantissime presentazioni, chi ti compra il libro, chi è che si interessa, chi è che interviene alle presentazioni, che feedback hai nel 2015 di un periodo che ormai è, insomma, come dicevi tu, 25 anni sono tanti per una sottocultura. Ma senti, la cosa interessante, il libro si è mosso subito bene, sta vendendo molto, quindi quando un libro raggiunge le migliaia di persone ovviamente diventa un pubblico trasversale in cui c'è di tutto, e probabilmente c'entra anche il fatto che ho scritto anche altri libri di genere completamente diverso, quindi esiste anche una fetta di pubblico che mi segue per la mia scrittura e per quello che gli racconto sulla fiducia. Non importa se parlo direi o se scrivo un fantasy o se faccio un romanzo storico collettivo come quello di Un territorio nemico. E alle presentazioni dipende molto dal luogo, perché poi le presentazioni hanno un loro pubblico solitamente. Ad esempio, ieri ero al Bios Lab, uno spazio occupato dagli studenti dell'Università di Padova, e lì c'era un pubblico di giovani, gente molto più piccola di me, quindi che ha vissuto soltanto magari l'ultimissimo periodo della cultura rave, con tantissime domande, 75 minuti di domande. E però ci sono anche casi completamente diversi, tipo una volta ho fatto una presentazione in un centro hop in cui c'erano per lo più persone over 60 che dicevano cose ingenue ma intelligenti. Ad esempio un omino ha alzato la mano e ha detto ma io ho sempre sospettato che su questa cosa dei rave i giornali non me la raccontassero giusta. Quindi un pubblico abbastanza trasversale che poi si ricoagula su un pubblico più interessato al tema quando va in determinati spazi. Ovviamente, per esempio, quando ho fatto invece la presentazione al Forte Prenestino a Roma, che è stato uno dei luoghi storici della intersezione fra movimento, nel senso politico del termine, e fenomeno free techno, c'erano anche molti anziani raver e quindi sono stati molti interventi più orientati sulla questione storica. Per quanto riguarda invece l'uso di droghe, tra l'altro le più variegate, io posso avere una testimonianza limitata alla mia frequentazione di Arezzo Wave, però anche ad Arezzo Wave c'era una fauna che probabilmente incrociava quella dei raver, quantomeno leggendo il tuo libro Muro di Casse mi sono accorto che alcune sostanze che sentivo nominare per la prima volta in quei posti, tipo micropunte, MD, vado indietro di più di 15 anni, 20 anni, e le incontrai prima, per la prima volta in quel luogo, mentre tu ne parli diffusamente nel libro ed era, come dicevi prima, l'uso di queste sostanze che ben diverse da quelle degli anni 80 che aprivano o comunque facilitavano l'intersezione, il contatto con altre persone, era diffusissimo e scontato e per niente demonizzato. Sì, tra l'altro le micropunte in realtà non erano altro, anche se avevano questa aura di mistero a causa del suo nome minaccioso, che delle piccolissime e molto concentrate compresse di LSD, quindi di fatto la sostanza era la stessa che c'era nei trip o cartoni volgarmente detti. No, è chiaro che il fenomeno o movimento free techno è stato anche fortemente legato all'avvento di determinate sostanze, e nel libro l'ho sottolineato più volte perché un errore forse che ha fatto a suo tempo il movimento è stato quello: quando i media sono accorti di questa cosa hanno cominciato a demonizzare dicendo sono solo droghe, e la gente si è difesa dicendo è solo musica, quindi forse dicendo una cosa altrettanto falsa. In realtà c'è una cosa da apprendere dal movimento hippie, è che il loro, ad esempio, utilizzo di psichedelici era fortemente rivendicato dagli intellettuali di movimento. Pensiamo a Ginsberg, pensiamo a Barrett, anche se era una specie di padrino, e a Ken Kesey e tutti gli altri ne facevano bandiera, e anzi mettevano al centro del loro discorso lo spiegare perché usassero quelle sostanze lì invece di altre, come potevano essere ad esempio il whisky o il tabacco utilizzato dai normale. E nella free techno penso che si possono, anche se ovviamente fare questi taglinetti è sempre una semplificazione storica, isolare tre momenti: un primo periodo che è stato quello più psichedelico, quello alimentato a MDMA e LSD, che era anche quello più pacifico perché avevi sostanze che venivano utilizzate in modalità poco consumistiche, sostanze poco costose e che non danno dipendenza, che vengono assunte e poi hanno un effetto molto lungo nel tempo, quindi la fase di consumo si estingue immediatamente. Poi c'è stato un secondo periodo, infatti un po' più problematico, è stato l'avvento di speed e ketamina, che essendo delle sostanze che danno un po' di dipendenza, anche se non quanto le droghe pesanti, che si utilizzano sbuffandole, quindi con più momenti d'uso nell'arco di una nottata, hanno già incominciato a creare qualche problema in più. E poi una terza fase, che può essere anche considerata degenerativa, quando il rave è diventato fenomeno di massa, ovviamente sono arrivati pusher anche completamente esterni al movimento, venivano lì soltanto a far soldi, e si è visto rispuntare anche crack, cocaina, eroina, che evidentemente sono droghe che anche per il loro effetto completamente antipsichedelico non potevano portare danni alla scena. Invece quanto era importante nella scena l'aspetto musicale? Beh, l'aspetto musicale è fondamentale perché è quello che ha ritirato su l'intero discorso. Cioè, questa cosa è accaduta, e questa cosa è accaduta intorno alla musica techno e non intorno a un'altra musica. E questo ritmo con il basso al centro, con la sua ripetitività, questa struttura formale e priva ad esempio di parole, interamente emotiva si potrebbe dire, anche qui semplificando, era quello che ha permesso il ritorno di delle modalità rituali ancestrali. È chiaro che è fin troppo banale, no, il parallelo, ma è banale perché è vero, il parallelo con i raduni primitivi dove non a caso si utilizzavano i tamburi, ok? Il ritmo fisso opera una serie di azioni sulla psiche individuale e collettiva. Intanto definisce uno spazio, perché esattamente allo stesso modo di un falò che era visibile, magari immaginiamoci un mondo preistorico, l'area del falò, l'area del fuoco era un'area rubata all'oscurità, ugualmente l'area fin dove si sentivano i tamburi era un'area che la civiltà umana strappava ai rumori minacciosi della natura. E dall'altro lato, ovviamente, un ritmo preciso permette di regolare la trance. La Passad, che è stato uno dei principali studiosi dei fenomeni di trance, ha studiato molto anche ad esempio la Pizzi e la Taranta Salentina, ha notato che la musica ritmata non è come si crede e come si credeva a volte l'innescatore della trance, anche se è sempre presente nei rituali di trance, ma ne è il regolatore, ovvero sia, in assenza di un ritmo univoco che detti i tempi a tutti i partecipanti, l'esperienza psichedelica o diciamo, l'esperienza di trascendenza autoindotta dalla suggestione, diventa isteria, mentre in presenza di un regolatore che dà il ritmo, il nel dubbio balla, fa sì che tutti i partecipanti possano trovare una sorta di passo interiore collettivo che permette questo famoso abbandono dell'io, che poi è alla base degli eventuali contenuti spirituali che si liberano all'interno di un rituale di questo tipo. We'll be right back. Bene, io avrei una domanda che va sul personale. Se ti ricordi quando è stato il primo contatto per te, cosa ti ha fatto scattare l'interruttore e perché, se c'è un perché? Ma certo, c'era un caso incredibile, perché si era negli anni 90 e arriva qualcuno e dice: c'è una festa allo Smannoro. Allora, intanto a quei tempi c'è una festa non vuol dire come oggi c'è un rave, ti immaginavi, non lo so, una festa di compleanno con i cappellini a cono e le trombette. E poi lo Smannoro era una zona industriale nei pressi tra Firenze e Prato in cui non c'è nulla e notoriamente non c'è niente. Una festa allo Smannoro. Quindi andiamo lì a vedere che c'era un rave con delle tribe inglesi e storiche. Era come assistere allo sbarco degli alieni, non soltanto perché questa cosa era davvero strana, grande, rumorosa, ma anche perché chiaramente tu vedevi che aveva una sua cultura, cioè tutto quello che facevano, la modalità in cui agivano, l'estetica, la musica, il modo in cui erano vestiti, tutto il setup non era una cosa casuale, era come davvero essere Claude Lévi-Strauss e entrare in contatto con una differente civiltà, e quindi era molto impattante. E inoltre aggiungerei una cosa, vale per me ma vale penso per tutti quelli che con questa subcultura sono entrati in contatto fra gli anni 90 e i primi anni 2000, era una cosa che stava succedendo in quel momento, non era l'eco di altre subculture che avevano vissuto il loro momento di gloria nel passato, la stavamo vivendo mentre avveniva, e questo è un altro fattore emotivo secondo me importante.

questo punto ti ringraziamo tantissimo e ci vediamo sabato. Ricordaci tu quando, a che ora di preciso in Sala Borsa questo sabato 31 ottobre alle 17. Ok, allora ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che Muro di Casse sarà presentato da Vanni in persona qui a Bologna in biblioteca Sala Borsa. Accorrete numerosi e che dire, se vi è piaciuta questa chiacchierata, un po' abbiamo raccontato il libro, ma non tanto, un po' abbiamo raccontato il contesto, tanto, e un contesto molto interessante, molto pregnante di quel periodo. Hai fatto un lavoro quasi da antropologo. Adesso, durante l'intervista, tu hai fatto un lavoro da antropologo, no, in effetti mi sembra sia venuta molto bene, perché siamo riusciti a dire tantissime cose tematiche senza svelare troppo del libro. E poi, non lo so, sicuramente oggi si può cominciare a guardare indietro, per quanto il fenomeno esista ancora, perché esattamente come si diceva del punk is not dead, anche il rave is not dead, però certamente si può guardare indietro e studiarlo con un po' di distanza. Penso che se questo libro mi è venuto fuori adesso e non prima, quando magari lo stavo vivendo anche più in modo più esaltato in prima persona, è perché ora esiste quel livello di distanza che permette di guardare alle cose con più oggettività. Ok, ti ringrazio molto per il tempo che ci hai concesso. Ma grazie a voi. Cosa rara fare un'intervista così strutturata. Di solito si fanno un'intervista di 3 secondi in cui non riesci a dire nulla di sensato, quindi molto bene. Beh, ma This is not an exit è fatta apposta per parlare del contesto e poi dura 1 ora e mezza. Facciamo 1 ora e mezza di mixata tecnica sottofondo e via andare. Lo spirito tanto è quello. Il continuum psichedelico. Comunque, grazie ancora e beh, ci vediamo sabato allora. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.